Arresto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qua a Arresto Radio Convento in compagnia di un amico fedelissimo della domenica che si chiama? Il Paolo Fornasari. In arte? Piccolo Lord. Piccolo Lord. Perché Piccolo Lord? Ce lo puoi spiegare un attimo? Allora, Piccolo Lord, ma perché praticamente fin da piccolo, quando sì. ero in, nel senso avevo pochi anni di età, anagrafica, sì. Rispetto a ragazzi più grandi di me, ero visto già come un viveur, come già, ero già un esempio per rispetto a ragazzi più grandi di me di età. Ah, però il, in questi, quando avevo 18 anni, no? E ora sono arrivato a 38 anni, però esatto. il, sono cresciuto, l'età è avanzata, però sei rimasto il piccolo Lord, il piccolo Lord, diciamo che il soprannome mi ha sempre accompagnato e la gente mi riconosce come il piccolo Lord. Di dove esattamente? Io sono cremonese, sì, e però ho due appartamenti, ne avevo tre, ne avevo uno anche a Rimini, sì, e però sono tuttora vivo sia a Cremona che a Milano. Ah, ok, vivi tra Milano, Cremona e Lonato. E anche Lonato, sì, perché sei sempre qua praticamente la domenica. Ah, sei uno dei fedelissimi della domenica, te. Io sono uno dei fedelissimi, mi piace molto il convento, è un locale storico, poi mi piace molto l'aperitivo della domenica, la serata com'è, dai, fanno animazione. La musica è molto bella, si sta bene. Si sta bene, si sta, è una grande famiglia, no? Giusto? Ti senti in famiglia? Sì, sì, mi sento come un locale familiare, perché comunque sono legato al convento da 20 anni. Ho 38 anni ma ne dimostro 26, ragazzi. No, è vero, perché gli amici da casa non ti possono vedere in questo momento, però hai un look e un'immagine proprio giovanile e particolarissima, giusto, vero? Esatto. Ma sei sempre stato così o è una novità degli ultimi anni? Sono sempre stato così, e, sempre stato così, fin da giovane. Perché praticamente io ho sempre fatto il rappresentante, il venditore. Sì. Per cui io quando andavo a vendere, sì, praticamente non andavo con l'abito tutto serio, in giacca e cravatta, però con l'abito serio da rappresentante. Da rappresentante. Io facevo sempre lo spezzato. Però perché non so, giacche particolari, jeans particolari, scarpe particolari, orologi, perché comunque conquistavo, diventavo simpatico per quello che mi doveva comprare la merce o comunque il commerciante. Esatto, perché ti distingui dalla massa in maniera incredibile, sì, anche però, qui. Ma però mi distingo, ma però so portare, li porto con disinvoltura i vestiti. No, è vero, cioè sei l'unico all'interno del convento con 600 clienti, eccetera, che si nota e si distingue per il suo look. Ecco, puoi descrivere come sei vestito stasera, che così magari chi ci sta ascoltando un po' capisce la particolarità del tuo abito. Allora, stasera c'ho su la camicia di Versace, vabbè, è tutta rigata, poi c'ho la giacca di Dolce & Gabbana con tutte le crocine all'interno della giacca che danno un po' di creatività, perché Dolce & Gabbana fa delle cose molto particolari con le asole esterne, diciamo da presentatore. Esatto. E poi la cravatta di Rocco Barocco. Le scarpe è una cravatta rosa e sì, è abbinata alla pochette che c'è nella giacca rosa, sempre di Rocco Barocco. E poi abbiamo i pantaloni rosa, la giacca è blu, e i pantaloni sono rosa della Guess con le scarpe di Cesare Paciotti con tutte le strass dorati. Ecco, quindi dopo glieli restituisci tutti, cioè no, glieli dai i vestiti? No, no, sono cose mie. Ah, sono cose tue? Ah, ok, no, pensavo che sono tutte degli altri, non indossa niente di suo Paolo, praticamente. Fantastico, no, comunque è particolarissimo, mi spiace che non potete vederlo, però già dalla descrizione vi siete fatti un po' un'immagine del personaggione che abbiamo qua. Poi anche i tuoi capelli sono sempre particolari. Sempre particolari, ultimamente cerco, perché la domenica il mio parrucchiere non c'è, quindi non riesco a cotonarli, però solitamente me li cotono come negli anni 90. Invece avendoli giù sembro più un ragazzo, sembro il ragazzo della via Pal, dai. Esatto, ma spiegami un attimo, cioè cosa vuol dire, com'è che te li fa cotonare, che io sono un po' ignorante? Me li cotona praticamente stando a testa in giù. Sì. Fonne. Sì. Cioè magari mezz'ora di fonne. Ah. Poi praticamente quando sei con i capelli giù per mezz'ora, dopo sali con la testa. Sì. Quando sei salito con la testa, praticamente lui col pettine ti te li cotona. te li arriccia col pettine, pettine l'H. Pettine l'H e te li fa gonfiare. E te li fa gonfiare tutti. Quindi, però questa pettinatura, questa piega non sta bene, è una piega non sta bene su tutti i ragazzi. Bisogna essere comunque carismatici, io non mi voglio vantare, però bisogna saperla portare questa piega. Vantati, vantati, perché non è per molti, anzi è per pochi. Infatti tu sei uno dei pochi che può fare questo. Ecco. Ricordatevi che io sono il piccolo Lord. Il piccolo Lord di Cremona, esatto. Quindi per chi non ha mezz'ora di tempo per fonarsi i capelli può andare a Gardaland a fare una montagna russa a testa in giù e poi appena scende con la lacca subito si fa un colpo così e magari riesce a imitare l'effetto codonatura. Comunque ragazzi, se voi andate da una parrucchiera o da un parrucchiere, dal vostro amico che vi fa i capelli, che quando voi vi sedete sulla sedia vi dice Laura o Fabrizio o comunque o Gianni come vuoi i capelli, e se vi chiede come volete i vostri capelli non è capace a fare il suo lavoro. Vi deve fare la piega, cioè il taglio più o meno lo deve dare, comunque la piega, il taglio lo deve dare in base alla vostra personalità, al vostro carisma e al vostro viso. Ah, ho capito, quindi è lui che deve imporsi su... È lui che deve imporsi, un bravo parrucchiere, ma non proprio parrucchiere, uno che comunque segue la moda, segue l'immagine della persona. Se comunque questa persona è a contatto col pubblico come me, che comunque io faccio il rappresentante, commercio profumi da tanti anni, cosmetici, comunque a contatto con la gente mi ha creato questa immagine per essere ancora più importante. Più importante, più accattivante, eccetera. Esatto. Ok, quindi ci ha dato anche un consiglio al nostro amico Paolo. Ricordatevi quando andate dal vostro parrucchiere che è lui che deve decidere il taglio che sta bene per voi, perché vi deve guardare il viso, capire la personalità subito e azzeccare la pettinatura, esatto, che è fondamentale. Io poi sono un amante degli animali, ho sempre avuto i barboncini, ne ho avuti 4 nella vita. Inizialmente quando avevo 15 anni fino a 20 anni ne ho avuto uno, poi mi è morto 20 anni, a 20 anni fino a 25, a fino a 27 anni ne avevo un altro, poi mi è morto a 27 anni e poi praticamente 7 anni fa ho preso 2 barboncini, sono 2 femmine e li ho tuttora e mi accompagnano durante le mie passeggiate per Milano, per Cremona, per Desenzano, ovunque, per Rimini, per Riccione, per Bologna, ogni tanto me li porto insieme con me. Quindi Paolo, scusami, mi è arrivata una telefonata da un'amica a casa in questo momento che mi chiede, è un WhatsApp, dai, non è una telefonata, mi chiede come sono pettinati i tuoi barboncini. Sono molto, sono tutti cotonati, tutti hanno il pelo tutto sia davanti che dietro che di fianco. Sono bellissimi, davvero. Quindi, signori e signori, se vedrete in giro per Milano Marittima un ragazzo cotonato con 2 bravoncini cotonati, fermatelo pure e ditegli: sei tu, sei il piccolo Lord di Cremona, giusto? Paolo Fornasari. Ecco, tra l'altro facciamo con la foto con 2 barboncini. Ecco, sei tu, c'è anche su WhatsApp e su Facebook. Facebook, esatto. Su Facebook, vuoi nuove amiche? Paolo Fornasari? Paolo Fornasari. Possiamo dirlo? Che sì, accetti, sì, amicizie? No, va bene. Ecco, e lì c'è la tua foto, così magari ti vanno a vedere anche. Ha visto, abbiamo trovato un modo per farti vedere, che magari qualcuno a casa era curioso, diceva: questo Paolo Fornasari com'è? Basta andare su Facebook Paolo Fornasari. Io ho 2 o 3 profili, però il mio profilo che uso di più è quello che ho i 2 barboncini in braccio. Ah, ok. E comunque se volete vedere Paolo Fornasari basta che veniate qui al convento di Lonato alla pericena della domenica, giusto? Ok, allora saluto tutti. Tutti quelli che ti conoscono? No, anche quelli... saluto tutti i ragazzi che mi conoscono e tutti i ragazzi che non mi conoscono. In prima fila metto le ragazze e in seconda fila metto i ragazzi. Giusto per non fare distinzione, va bene. Ok, ciao dal piccolo Lord e da Sandrino. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao.